Mix 24 di Giovanni Minoli. Oggi scopriamo il mondo con gli occhi di un grande giornalista, Ettore Mo, un inviato davvero speciale, 50 anni passati a raccontare guerre, dittature e rivoluzioni. Mo appartiene a una generazione di cronisti che sanno raccontare storie da tutti i continenti, perché sanno anche stringere singolari amicizie con guerriglieri, combattenti, per altri introvabili per loro mai. Una generazione di cronisti nata e vissuta nell'era pre-internet, quando ancora le notizie bisognava andarle a cercare. E a questo servivano gli inviati speciali, ed Ettore Mo è forse il più famoso dei corrispondenti di guerra italiani dei nostri giorni. Sono ormai tanti anni che giro un po' per il mondo per raccontare le guerre, i conflitti, le rivoluzioni e anche le catastrofi naturali. Come lo faccio, eccetera. Il mio grande esempio è stato Egisto Corrado, il quale diceva che il giornalismo si fa con la suola delle scarpe, non volendo dire non usando il cervello, volendo dire che per raccontare gli avvenimenti bisogna andarli a vedere da vicino. È stato sguattero e cameriere a Parigi e Stoccolma, barista nelle isole della Manica, insegnante abusivo di francese a Madrid, infermiere a Londra e steward di prima classe su una nave mercantile britannica. Tutti mestieri umili, che non gli hanno impedito, anzi hanno contribuito a farlo diventare un grandissimo giornalista, inviato di punta del Corriere della Sera. Ettore non si ferma all'analisi, non gli piace fare lì l'analisi politica, essere il grande analista e stare chiuso in albergo. Ettore ha bisogno di vedere le cose, di odorare, di camminare, di parlare con la gente, di stare all'interno della storia per poterla raccontare. Ritengo che sia il più bel mestiere del mondo, ecco. Sai, la battuta di Montanelli, famosa, meglio, sempre meglio che lavorare, ma certamente non è questa la ragione perché è un bel mestiere. Io se sono di fronte a un avvenimento particolarmente drammatico, voglio poterlo raccontare fino in fondo, quindi mi avvicino il più possibile. Come diceva Capà, non ci sono foto belle o foto brutte, foto prese da vicino o prese da lontano. Io sono uno che vuole le foto prese da vicino, e più sei vicino, più capisci la situazione e la puoi descrivere nei dettagli. Allo stesso tempo non è che non sono animato da uno spirito di pietà, io sento la pietà, sento il dolore e quindi certamente non ho un comportamento cinico. Quando tu torni nella tua stanza d'albergo e devi raccontare un fatto, devi scegliere le parole con una purezza incredibile. Io parlo di castità verbale, se fosse possibile. Ma io stesso mi sono reso conto dopo tanti servizi drammatici che non è possibile. Un racconto senza aggettivi. Io non ci sono riuscito, ma non è mai riuscito nessuno. La bambina che si butta dalla finestra, 11 anni, perché non voglio più vedere la guerra. Davanti a questi fatti, che prosa devi usare? Questo sbrodaglio di aggettivi, di cose così. Anch'io sono colpevole di questo, però a un certo punto mi viene, dico, ma come racconti un fatto di questo genere? Ettore ha una cura ossessiva per la parola. Lui è capace di stare, non dico mezz'ora, ma lunghissimo tempo, a decidere se l'occhio del generale che sta intervistando sia ceruleo, sia grigio o sia chiaro. Sempre in cerca di storie da raccontare, Mo ha passato la sua vita in giro per il mondo, dalla Cecenia al Libano alla Cambogia, ma è l'Afghanistan. L'Afghanistan, il paese che forse conosce meglio. È stato in quella terra tante volte, dal 79 al 2011, e ha incontrato tutti i grandi protagonisti dei fatti storici più recenti. E forse l'Afghanistan è per Ettore Mo la storia della sua vita. 1999. In Afghanistan sono al potere i talebani, che hanno ormai il controllo dell'intero paese, ad eccezione della valle del Panjshir. È qui, nella roccaforte del mitico comandante Massoud, che arriva Ettore Mo. Dopo Ogni viaggio mi dico, questa è l'ultima volta, in Afghanistan questa è l'ultima volta. Ed eccomi, adesso ci sto andando di nuovo, quindi è una promessa che non riesco mai a mantenere. Sono tornato a casa, questa è casa mia. I ricordi più belli e più dolorosi sono quelli dell'Afghanistan, ma certamente sono stato anche in Cecenia, in altri luoghi di grandi conflitti, e quindi è difficile fare una scelta, ma certo con l'Afghanistan ho avuto un rapporto più lungo, continuativo, ce l'ho ancora, ci torno ancora adesso. Ero affascinato dalla storia di questo grande comandante che non scendeva mai a Peshawar, cioè nella zona di confine tra Pakistan e Afghanistan, per vederlo, bisogna andarlo a trovare. Quindi bisognava sobbarcarsi a questo lungo tragitto, faticoso tragitto di una settimana o anche di 15 giorni le volte per andarlo a stanare nel suo rifugio in montagna. E quindi questo personaggio mi ha affascinato, sono riuscito ad avvicinarlo e quindi rimane il ricordo più vivo, più, anche un po' più doloroso della mia esperienza afghana, il grande Massoud. Massoud, il leone del Panjshir, la sera prima di essere ammazzato aveva fatto le ore piccole parlando col suo braccio destro di Dante e di Victor Hugo. Il leone gentile, come lo ha definito lo stesso giornalista, l'eroe afghano della resistenza antisovietica, diventato una leggenda col quale Mo aveva stretto un legame speciale. E forse è per questo che per Ettore Mo Massoud rimane ancora oggi un incontro speciale. Ecco la sua ultima intervista al generale, realizzata nel 99, 2 anni prima che Massoud morisse. Comandante Massoud, piacere di rivederla ancora. L'ho incontrata la prima volta nel 1981 a Roja e l'ho rivista nel 1984 dopo che aveva respinto i russi per 7 volte, diventando il famoso leone del Panjshir. Mi chiedo se possa ricordarci ora brevemente i combattimenti con i russi in questa vallata. Ci sono stati 7 scontri decisivi con i russi in questa valle. Oltretutto, nello stesso momento, avevamo dei problemi con i membri del Partito Islamico capeggiato da Gulbuddin Hekmatyar, che non consentivano l'accesso alla valle del Panjshir di rifornimenti di cibo e munizioni. Quel periodo è stato molto duro e il sostegno della popolazione è stato determinante per superarlo. Solo grazie all'aiuto di Allah abbiamo avuto il coraggio di difenderci e la forza di respingere gli attacchi dei russi. Mi interessano di più i risvolti reconditi di certe cose, più che le grandi linee della politica oppure delle strategie militari. Mi interessano i piccoli fatti, mi interessano le persone. Insomma, sto dalla parte di quelli che soffrono in silenzio quasi sempre. Voglio dire, io privilegio l'umiltà. Uno degli avvenimenti che poi mi tocca di più ancora che la morte, le ferite o diciamo i fronti di guerra è la miseria. Forse sarà perché sono stato un ragazzo molto povero, vengo da una famiglia molto povera. E la miseria, la povertà, credo che sia la cosa che mi commuove di più, specialmente quando c'è l'infanzia di mezzo. E devo dire sì, lì veramente io soffro. Io credo che Ettore è un medico di base, non è un chirurgo. Non gli piace fare la grande operazione, gli piace curare la gente di tutti i giorni, curarla nelle piccole cose. Questo si riscontra, secondo me, nel suo modo di scegliere poi le storie. Io sono convinto, sono sicuro, che se Ettore dovesse scegliere l'intervista con un presidente o raccontare la giornata di un semplice operaio, Ettore racconta la giornata del semplice operaio. Il tuo peggior difetto? Peggior difetto? Non so. Non ne hai forse? No, ho difetti, ma sto pensando qual è il peggiore che ho. la paura di sbagliare. Forse. Il libro preferito? Omaggio alla Catalogna di George Orwell sulla guerra civile spagnola. Il film preferito? Fronte del Porto. La tua grande passione? La lirica. Se dovessi cambiare qualcosa nel tuo fisico, cosa cambieresti? Di alzarmi di qualche centimetro. Il momento più bello della tua vita? Uno dei più belli quando sono entrato al Corriere della Sera a Londra. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che effetto ti fa riascoltare le parole e la voce di Ettore Mo? Ma la prima cosa che mi viene in mente è che qualunque cosa dicessi di Ettore, lui l'unica cosa che non vorrebbe è una sviolinata sul mestiere del giornalista e su Ettore Mo. Ettore Mo è un personaggio fuori dal comune. Prima di tutto è un uomo con un fisico bestiale. Ricordo che una volta eravamo a Spalato, siamo andati a Srebrenica, dove c'era stato nel 95 il massacro di 5.000-6.000 musulmani, e facemmo 24 ore di viaggio in camion per arrivare fino nelle vicinanze di Srebrenica. Facemmo questo pezzo in cui, francamente, noi stessi mentre lo scrivevamo stavamo piangendo dal dolore delle cose che avevamo visto, e poi a mezzanotte andammo a mangiare qualcosa. Mi guardò e mi disse: senti, ma se domani verso le 4:30-5 del mattino andassimo a Sarajevo? Non avevamo dormito neppure un'ora e lui già decideva di partire per un altro posto. Senti, senza fare sviolinate al giornalismo, però Mo dice che il giornalismo si fa con la suola delle scarpe, ovvero che per raccontare gli eventi bisogna andarli a vedere da vicino. Ma è ancora vero oggi? Ma io penso di sì. E penso, si fa? Credo, ma meno forse di un tempo, comunque lo fanno meno i grandi media e lo fanno molto di più i freelance, per esempio, di quanto non lo facciano gli inviati dei giornali, che sono più limitati ormai negli investimenti, nelle spese e via discorrendo. Ma credo che abbia perfettamente ragione, cioè l'inviato deve andare sul posto, deve andare sul posto per capire che cosa succede, per entrare dentro le cose, per capire l'anima degli eventi. Ma in che modo secondo te la tecnologia ha cambiato in positivo la professione? Diversamente da un tempo non dobbiamo più diventare matti per trovare un telefono o una telescrivente per scrivere un pezzo. E il negativo? Il negativo forse perché vengono rimandate ogni giorno migliaia di notizie, e tra queste è sempre più difficile capire quella buona. La tecnologia e gli investimenti che i giornali si possono permettere sempre meno ci portano sempre meno sui luoghi degli eventi. Ecco, ma questo esserci meno ci ha resi più distaccati e anche più cinici? Non lo so, certamente per un vecchio inviato come Ettore o anche per uno come me c'è sempre una certa dose di cinismo, però c'è anche sempre una certa dose di coinvolgimento. E qual è questo coinvolgimento? Quello che vuoi partire, che vuoi andare sul posto, che vuoi andare a vedere. È questo il coinvolgimento che rende forse meno cinici, meno di quanto uno possa pensare. Ecco. Che cos'è che fa grande un inviato, secondo te? Guarda, Ettore lo conobbi la prima volta che ero al Corriere della Sera, credo 81-82, facevo uno stage e mi capitò di sollevare il telefono per prendere il suo pezzo dopo un mese che era stato dato per disperso in Afghanistan dal giornale. Poi dopo un mesetto, due, tornò, io ero in tipografia, mi guardò e mi disse: ma tu sei quello che ha preso il mio pezzo, l'ha trascritto? Sì, ho detto io. Ecco, lui mi disse: guarda ragazzo, vacci dentro duro, ma vacci dentro veramente duro. Senti, dell'Afghanistan Ettore Mo dice: è casa mia. Ecco, Alberto Negri, fra tutti i paesi in cui hai viaggiato e che hai raccontato, di quale diresti è casa mia? Direi tutti quelli in cui io ho vissuto in qualche modo, dall'Iran alla Siria, all'Iraq, al Sudafrica, sono tutte una parte della nostra casa, la casa dei ricordi. Grazie Alberto. Grazie a voi. E il tema caldo, o uno dei temi più caldi della settimana, è certamente quello delle pensioni. E la Sora Cesira, come sempre, lo affronta a modo suo. Oggi tutti insieme cercheremo di capire come fanno per campare tutti quanti gli italiani. Come fa la casalinga? Che con 700 euro al mese non possiamo andare avanti. Oh, e come fa l'operaio? E i miei figli che cosa gli dico? Che non possono più mangiare. E l'impiegato? E come si fa per andare avanti, per poter sopravvivere? E l'insegnante cosa dice? Voi tutti siete una massa di ladri. E il pensionato? Il pensionato. Il pensionato come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Gli fa una previsione la busta arancione che l'INPS ha preparato e adesso gli ha mandato per dargli la notizia che è abbastanza rovinato. E il pensionato cosa fa? Ma come campa non si sa. Lo Stato in ginocchioni per le preoccupazioni, fra tante soluzioni, tagliuzza le pensioni, che tanto ormai è invecchiato, poverello il pensionato. E il pensionato cosa fa? Anche se c'ha una certa età, eppure i contributi pagare li ha dovuti, e adesso per campare vuoi che torni a lavorare. Il pensionato. Ma come fa? Buongiorno Alessandra Cravetto. Buongiorno. Allora Ale, quali app consigliamo oggi alle smamme? Oggi parliamo di un argomento ostico che sono tabelline e matematica. Mm. Difficilissimo per i bambini, ma anche per gli adulti. 9 per 9 quanto fa? 72. 72. Il teorema di Pitagora? Sì, certo. Ma non fa, non fa, ma lei. Questo è Buttiglione. E l'area del quadrato è, aspetti, moltiplicato. Dai, del cioè... quadrato, ti prego, di qualcosa. Non la sa. No. Tu la sai. È la verità. Beh, che io geometria non l'ho studiata. Non l'ha studiata? Cosa ha studiato però? No, perché mi fa il tesoro? Differenza tra seno e coseno. Beh, il seno, dai, il seno sì, noi lo sappiamo. È rischiosa come domanda però, Punto, c'è la, una retta che... Per... che passava, insomma, che una, toccava. Passava passa, di lì. Passa la retta. L'altra figura geometrica. 9 per 9? Non lo so, non so, giuro. Questa è la crema cirinna. È lei? Crema di Pitagora o il pi greco? Bellissimo. Bellissimo. Il pi greco è carino? Il peso, un corpo immerso nell'acqua. Era Archimede quello, dai. Inversa il suo peso, una cosa del genere. Però, insomma, io so poche tabelline, quindi anche questo è troppo per me. Non sa le tabelline, neanche la cirinna. È perché il problema è sempre lo stesso, come tu mi insegni. Cioè, bisogna imparare da piccoli per evitare di fare queste figure da grandi. Ecco, giusto? Appunto. Allora, tutte le mamme, tutte le smamme in ascolto, c'è una app che si chiama Quix Tabelline, pensata proprio per i bambini, che li aiuta a fare di conto, a imparare le tabelline, e funziona come proprio un gioco, cioè tu devi fare delle moltiplicazioni a tempo e guadagni o non guadagni punti a seconda se le fai giusto o le fai sbagliate. Scusa Ale, ma una domanda, mi insegna anche a fare le moltiplicazioni per esempio con la virgola? No, perché ieri ti dico, mi telefona Giulia, sì, e mi dice, mamma, sto facendo i compiti di matematica, e io anche un po' fiera. Brava amore. Brava amore. Mamma, ma ho un problema. E ho detto, amore, non sai quanti ne ho io, gli ho detto tu. Hai detto, ma mamma, le operazioni con la virgola. Detto, scusami Giulia, sono impegnata, panico, ti chiamo dopo, capito? Corri su Google a cercare moltiplicazioni con virgola. Adesso tu non mi dire che ti ricordi come si fanno. No, dai. Io non mi ricordo, però mi ricordo che c'è una app invece, che è un'altra, che funziona anche per le operazioni più difficili, che si chiama Aritmeticando. Però, ha paura, Ale, già il nome. Sì, però insomma ti può essere d'aiuto da qui in avanti. Però secondo me il punto è un altro. Cioè, va bene le operazioni con la virgola, che sono complicatissime, ma la domanda vera è questa. Ma 9 per 9 farà 81? Grandissimo, Massimo Troisi, fantastico. Fantastico, però adesso torniamo sempre lì. 9 per 9 farà 81? Beh, ha detto che fa 72. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Allora Pietrangelo, oggi dove andiamo? Oggi andiamo in libreria. E in libreria io dirò un nome, Marcel. Ti chiederò e te lo chiedo. Se dico Marcel, tu cosa pensi? Che penso? Pietrangelo, Marcel Proust. E invece no, c'è di meglio. C'è un Marcel ancora più importante di Proust. Fai un piccolo sforzo. Chi può essere? In libreria. In libreria. No, c'è solo un Marcel in libreria. No. Ti aiuto. No. Allora, il suo ultimo libro va via come il pane. Ecco. Come vedi, siamo nella centralissima Galleria Sordi, nei pressi di Palazzo Chigi, che è sede del governo, e di Piazza Colonna, nel cui palazzo centrale trova sede il quotidiano, fondato a suo tempo da, indovina da chi, te lo ricordo? È un marito importante, sì? È il marito di Maria Angiolillo, la regina dei salotti, musa del potere. E dunque meglio di Madame Verdurin e il Marcel, il cui libro non fa in tempo ad arrivare in libreria per fare il tutto esaurito, e Marcello Sorgi. Ah, giusto, autore de Colosseo. Vendesi il romanzo, si può dire, Pietrangelo, di fantapolitica? No, altro che fantapolitica, no. Finirà così. No? Finirà così. Così? Sì. Sicuro? Sì. Si venderà all'anfiteatro Flavio, sì. La meta desiderata dai turisti di tutto il mondo. Sì, lo vendiamo? Sì. Sei sì, sicuro? Sì, sicuro. Tanto per cominciare, il libro di Marcel vende più di quello di Massimo Gramellini, nonostante il battage di Fabio Fazio, e più di quello di Salvuccio Riina, della cui promozione, sappiamo, si è occupato Bruno Vespa. Vabbè, non cominciare, Pietrangelo, le tue malizie. Ma che malizia? Queste sono le tue malizie. No, sì. Ma che malizia. Sì. Colosseo Vendesi non è fantapolitica. In ogni pagina ha la realtà. Dino Bracco, per esempio, il direttore del quotidiano Il Vento, e Gianmarco Chiocci, direttore appunto del Tempo. Il presidente del governo dei ragazzi è Matteo Renzi, e il suo successore al governo, leader del partito del no, è Matteo Salvini. Sono riconoscibili poi Gianni Letta, Silvio Berlusconi e perfino Luca Lotti. Il potente sottosegretario di Renzi, la cui forfora colora di umanità la spietata trama di potere. Chiocci, al centro di una vicenda internazionale in cui i mercati e i grandi quotidiani che li rappresentano, il Financial Times, il Wall Street Journal, quelli che legge Mario Secchi, per intenderci, i tuoi? Sì, lo incoronano star del Sabba, che segna la sconfitta di Renzi. Eh no, Pietrangelo, questo no, perché Renzi non potrà mai essere sconfitto. Egli ormai... Lo so, ormai si è fatto divo, però... Mi consentirai, al modo di Caio Gregorio, er guardiano del pretorio. Nella vita ognuno lo sa, l'importante è ben guardare. Del divismo prendi il caso. Non per fare il ficcanasso, ma i miei tempi, quando un tale gli riusciva bene o male, sia qualunque fosse il sesso, d'arrivare ad aver successo, per sto semplice motivo si faceva chiamare divo. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ciao, buongiorno, cosa? Buongiorno Donatella, senta, ha visto i David di Donatello? Chi? Il premio, i David di Donatello, li ha visti? Ma che si chiama così? Ma mi hanno copiato il nome? No Donatella, ma no. Ma io li potrei denunciare per questa cosa, lo sai? No, non credo Donatella, lo sa che io non credo invece. Comunque io pensavo che lei si fosse ispirata ai David per il nome della sua rubrica, no? No, io mi sono ispirata a mio figlio che si chiama David Kevin. Perfetto. E ho pure una figlia che si chiama Shakira, però mi sono ispirata a lei. Donatella, mi sono ispirata a lui. A lui, ho capito. Carino. Donatella, ma con tutto il rispetto per la sua famiglia, adesso, se non le dispiace, potremmo parlare del film di oggi? Le va? Sì, te lo dico, però io mi chiedo, no? Ma con tanti film dove si sparano o parlano un sacco, tipo quelli dove mi mandi tu, adesso tu Dan Plane mi mandi a piangere, come non ho pianto neanche quando mi hanno fregato l'autoradio, ma sei scema? E addirittura, Donatella, ci racconti che succede? Quanti giorni ti fermi? 4. Abbiamo un po' di soldi, perché io sono proprio a secco. Possiamo fare quello che vuoi. Hai sentito, Truman? Ce la spasseremo noi tre. Io e te, Truman e io. Il film si chiama Truman. E c'è questo signore che va a trovare il suo amico che è molto malato, tipo che proprio c'ha poca vita da vivere. E lui va lì per farlo stare allegro. Allora cominciano a fare un sacco di cose divertenti. Ma lui ha anche un cane enorme, buonissimo, che si chiama Truman. Ed è preoccupato di farlo stare bene quando non ci sarà più, hai capito? Perché per lui è come un figlio. Donatello, ho capito, si commuove. Perché? Che c'è di male? Niente. E lui vuole che il cane stia bene, hai capito? A me i film con i cani non me li dovete far vedere più. Giura che non mi ci mandi, giura? Non ce la mando. Giura. No, non ce la mando più, giuro! Dillo! Giuro! Lo sai che io ho gli ormoni della primavera e mi vengono pure le botte di caldo. E poi quando piango mi cola tutta l'eyeline, mi viene la faccia no, tutta per nera. Carità, l'eyeline no, Donatella, non se la prenda. Ma tu come hai fatto a vedere che l'ho presa? No, io dicevo che non se la deve prendere. Ho capito, ma tu dove hai visto che ho riempito la bibita gratis? Guarda che l'avevo pagata no, prima. No, Donatella, io intendevo solo sono dire che non si deve dispiacere perché è un film. Ci vuole dire del cast invece? Ma è un film di piangere. E infatti in questo film c'è un cane bellissimo di razza Bustif, gigante, bravo. E pensa che non ha fatto in tempo a rivedersi al cinema questo cane. Non ci ha potuto andare perché è morto prima dell'uscita. Povero. È morto prima dell'uscita del film. Fammi finire. Scusi. Ecco. Va bene. Hai finito? Io ho finito, lei? No, no. Ti devo dire che questo film è bello. Tu adesso mi devi dire, vale la pena? Dico. Ah, va bene, scusi Donatella, ma vale la pena andare a vedere Truman? Vale la pena, però portatevi la bacinella per piangere, soprattutto se avete un cane o se avete un amico, e anche se avete tutti e due. E comunque questo film ha vinto dei premi, che ti credi? Hai capito? Non è una di quelle solite cazzate. Che mi mandate a vedere voi quelle cose lì e far ridere e piangere insieme, hai capito? Quindi ci puoi andare. Va bene Donatella, io la ringrazio anche perché la sento molto molto toccata. Da chi? Ma tu senti, scusa, tu cosa? Sei sicura che non mi vedi proprio? Donatella, grazie. Prego, però secondo me tu mi vedi. Ciao Franco Schipani. Ciao Alessandra Fiori. Franco, non dirmelo, i Pink Floyd in Italia. I Pink Floyd, magari. No. No, questi sono Elio e le Storie Tese che fanno l'ennesimo scherzetto. Devo dire, è riuscito perché ci sei riuscita anche tu, vero? Eh beh, sì. Ma non è difficile con senti, me. Senti, uguali, pazzesco, senti. Ma la voce? Arriverà alla fine. Beh, allora non conosci il pezzo. Arriva sì, alla fine. Sì, certo, ma volevo sentire Elio. Vuoi sentire? Bene, puoi andare domani, sabato 23 aprile, al Palaghiaccio di Pergine Valsugana alle ore 21. Elio e le Storie Tese. Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno ecco, secondo te, dimmi, Valerio Scanu ha avuto successo sì, perché è bello, perché è bravo, perché è bello e bravo, e bravo e bello? Perché è sardo. Ah, infatti viene dall'isola della Maddalena, che è uno dei posti più belli di tutto il Mediterraneo, famosa per le spiagge e la simpatia della gente. Pensa che proprio qui Valerio Scanu, nella Maddalena, ha mosso i primi passi artistici, diciamo. Poi insomma attraverso il mare inizia i talent scout, arriva a Sanremo, insomma con esperienza e perseveranza diventa bravo anche dal vivo. L'appuntamento con lui è per dopodomani, domenica 24 aprile, all'Auditorium Conciliazione di Roma alle ore 21. Si fatta una vesta scullata, nu cappiella quei nastri e quei rose, stiva miezza tre o quattro scianto e parlava francese e a così. Nel 1993 Federico Fellini incontra per caso Roberto Murone in uno studio televisivo e gli confessa: guarda, io ho sempre voluto girare un film sulla tua vita. Murolo, Roberto Murolo, uno sportivo, pensa che vince, cara Alessandra, i campionati universitari dei tuffi del 1937. Lui neanche era iscritto al partito, quindi cioè, partecipava, però insomma, che era bravo, ecco, diciamocelo. Attore, musicista e grandissimo, grandissimo interprete, nato in una famiglia nobile. Si dice che sia anche lui un figlio illegittimo del grande Edoardo Scarpetta, e mi chiedo, Edoardo Scarpetta, dove lo trovava il tempo di andare a girare e fare tutti questi figli illegittimi, la famiglia De Filippo e gli altri, e Scarpetta gira, quando vedevano Scarpetta... Vedi, c'è sempre Pietrangelo qua che è con noi, che ha qualcosa da dire su, no, anche su dico, questo. No, si trova. Ma, il scusami, tempo dice che lui lo ma trova, se, si secondo, trova. Secondo te, cioè lui girava per Napoli, lo vedevano... Così che girava nei vicoli, diceva: è arrivato Scarpetta, nascondiamoci, oppure è arrivato Scarpetta, facciamoci vedere. Questa seconda cosa. La seconda che hai detto. La seconda che hai anche detto. Perché l'uomo è uomo. Anzi, il maschio è maschio. Va bene, Franco. Ma volete, mi sento un po' in minoranza. No, vai. Okay, lui e Murolo chiude l'epoca d'oro della canzone napoletana, uno degli ultimi grandi interpreti. È bella la sua storia, ce la racconta Giovanni Minoli, quindi restate in ascolto.